Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Bentornati a Nessuna è perfetta. Buona domenica, come state? Beh, spero che stiate bene, perché noi è di questo che ci occupiamo ogni domenica, di migliorare, di alleggerire le nostre vite complicate. Da 2 anni ormai, terzo, ci occupiamo di alleggerirle metaforicamente con la nostra piccola battaglia contro il multitasking. Intanto, per alleggerirle ancora di più, abbiamo anche introdotto una nuova figura quest'anno, quella della Love Coach, la coach dell'anima, con la quale vogliamo concederci un momento per noi, no? Viene una fase nella vita e anche nella settimana in cui dice: oh, adesso voglio pensare un po' a me. Ecco, noi lo facciamo con la nostra Love Coach Elisa Bulgheroni, ma parleremo anche del tema del momento, quello di cui da settimane si parla negli Stati Uniti e in Europa, vale a dire il rapporto tra l'uomo di potere, in casi molto rari la donna di potere, e chi rispetto a questo potere non ha la forza o non vuole dire di no e accetta anche pesanti molestie sessuali. Ne parleremo con la nostra Sunday Girl, con Michelle Hunziker. E con lei parleremo anche di quello che riguarda il mondo del cinema italiano. Sapete che il regista Fausto Brizzi è un po' sotto osservazione in queste settimane. Ma siccome nessuna è perfetta, punta molto ad alleggerire i nostri sensi di colpa, non soltanto sul privato ma anche sul fronte professionale, questa domenica parleremo anche di una cosa che dovrebbe interessarci tutte, cioè come farci pagare come gli uomini. C'è un report del World Economic Forum che approfondiremo con persone che ne sanno moltissimo. Ma prima di occuparci di una cosa importante come appunto il nostro salario, quello che ci consente di vivere, guardiamo al lato più intimo della nostra vita, e questa è la domenica della nostra Love Coach. Allora, eccoci con la nostra Love Coach Elisa Bulgheroni. Però Elisa, Nessuna è perfetta è un programma che punta anche a guardare quel che ci succede, quel che accade intorno a noi, da un punto di vista sempre un po' diverso, non convenzionale. E quindi anche di fronte ovviamente a casi enormi di dimensione ormai globale, quello che abbiamo visto sulle molestie a Hollywood è arrivato anche in Italia. Viene un po' da chiedersi: ma come mai ora? Come mai tutte insieme? E c'è chi comincia a pensare che ci sia forse una sorta di regia globale per mettere in difficoltà il mondo di Hollywood, il mondo democratico, oppure comunque si chiede come mai tutte e tutte adesso. Tu che ne pensi? Allora, innanzitutto ciao Maria, buongiorno a tutti. Cercherò anch'io di non essere convenzionale, allora, per essere in linea a voi. È da riflettere, infatti, come mai tutto un tratto, e non soltanto nel mondo di Hollywood ma anche nel mondo italiano, c'è una sorta di manifesto di dichiarare apertamente esperienze sgradevole che hanno potuto vivere delle donne che inseguivano, come dicevamo allora, l'altra volta, inseguire i propri sogni, i propri desideri, e pur di averlo a volte dovevi soccombere a certi poteri maschili. E mi viene da pensare che questa energia, no, non credo che ci sia un complotto, però la fantaspolitica è sempre in agguato nella mente di qualcuno, però potrebbe essere anche che un po' il fatto che qualcuno ha osato possano osare gli altri, come che questa energia femminile che un po' viene sempre più, più si manifesta, più ha bisogno di essere raccontato e detto, prende un pochino il sopravvento, perché se qualcuno l'ha fatto magari ancora lo posso fare io. Un fenomeno imitativo, dottoressa Bulgheroni? Non soltanto se imitativo, però può essere anche di una sorta di come vivi tu personalmente il coraggio, per cui se una è stata coraggiosa a dirlo pubblicamente e non si è rotto niente, potrei anche io permettermi di dirlo senza che si rompa niente, senza che si rompa questa immagine, perché comunque stiamo parlando di un mondo dello spettacolo, di un mondo dell'immagine, di un mondo del visibile, e quindi di un mondo dell'ego anche. Io vorrei capire, proprio perché con la nostra Love Coach noi indaghiamo le pieghe più private, più personali del nostro essere, che cosa scatta in una donna che ha sempre taciuto quando vede che un'altra parla, la voglia di emularla, l'emulazione, oppure arriva un messaggio di maggiore sicurezza e dice allora ce la posso fare? E perché in questo momento sta succedendo un po' ovunque, dal caso Weinstein al caso Brizzi, il regista in Italia, tutte quante adesso hanno il coraggio che non hanno avuto prima. A me sorge questa domanda, ma come mai sempre si è chiesto dagli anni 60 qualcosa, 70 in poi, di essere le donne, formare parte di un coro, di una comunità di solidarietà, e quando di fronte a un evento così doloroso, comunque sì, al di là dei giudizi che si possono dare dall'esterno e che si usano per come si giustificano queste, perché lo fanno. Comunque sia, queste donne si stanno solidarizzando in un dire, in un raccontarsi. Sempre lo abbiamo vissuto, Maria, che essere da soli è difficile, ma se sei in un coro avviene in qualche modo la voglia di poter raccontarti anche tu. È una sorta di dire ok, anch'io lo posso dire. E non si rompe nulla. Adesso invece no, però si dice invece brave, avete fatto bene, quindi questo ovviamente contribuisce a tirar fuori il coraggio. Esatto, come c'è, ci sono anche altre voci, ma il giudizio sempre ci sarà, e brave le donne che riescono ad andare fuori dal giudizio e dire chi se ne frega, io posso raccontarmi, e quasi una sorta mi prendo per mano dell'altra simbolicamente. Ed è trasversale, perché il potere è trasversale, il sentire delle donne, possiamo parlare diverse lingue, ma c'è una lingua del sentire che è una lingua che è trasversale e che è quasi una legge universale. E queste donne, anche oltreoceani, anche se attraversano la nostra terra, riescono a dire il mio sentire di fronte all'essere sopraffatte. Grazie Elisa Bulgheroni, buona domenica dottoressa Bulgheroni, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica Maria a te e a tutti quanti. Noi torniamo tra poco con Michelle Unzi. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Lo sapete, questo è il momento della nostra Sunday Girl. E la nostra Sunday Girl è davvero una donna solare. Noi a Nessuna è perfetta siamo sempre felici quando ci raggiunge la domenica, e siccome il titolo della nostra trasmissione è appunto una rivendicazione della imperfezione, fa particolarmente a pugni col titolo invece del libro che Michelle Unzi, che era appena scritto per Mondadori, Una vita apparentemente perfetta. Libro autobiografico, percorso di anni bui quando Michelle era poco più che ventenne e entrò a far parte di un gruppo di persone, diciamo, chiamiamola pure una setta, che la manipolava. Michelle, all'epoca avevi 23 anni. Certo, aprire se stessi in questo modo e raccontare un periodo così buio della propria vita ha richiesto coraggio. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie della bellissima presentazione, Maria. Sì, devo dirti che è stato sicuramente molto difficile, appartiene al passato, quindi per fortuna oggi sono risolta, ho una vita meravigliosa con le bambine che sono tutte bellissime, un marito che amo tanto. Quindi stiamo parlando di un libro che io ho voluto fare soprattutto per dare un aiuto a chi potrebbe cascarci o ai familiari che sono purtroppo stanno cercando di aiutare persone che sono intrappolate in queste situazioni. È un libro che è a cuore aperto, perché ho voluto davvero dire tutta la verità per la prima volta, anche perché ho fatto un grande percorso anche psicologico, sono riuscita davvero a venirne fuori alla grande, perché sono uscita dalla setta nel 2005, adesso siamo quasi nel 2018, quindi era il momento giusto di parlarne veramente. Come funziona, Michelle, la manipolazione psicologica? Penso al gruppo nel quale ti sei ritrovata a 20 anni, ma penso anche ad altri gruppi, ad altre sette che fanno leva sull'insicurezza, sulla debolezza di una giovane donna. Tu eri insieme molto giovane e avevi già un grande successo. Su che cosa hanno fatto leva per metterti in gabbia? Sulle mie fragilità, le mie debolezze, che ovviamente arrivavano dal passato, come tutti noi. Ho avuto anch'io una famiglia abbastanza complicata, ma appunto io oggi sono ammiro e adoro e amo i miei genitori, però ovviamente non, come tutti, non eravamo una famiglia perfetta. Mio papà soffriva di alcolismo e poi si sono separati, insomma ci sono state tante vicissitudini che mi hanno fatto soffrire molto, tant'è vero che io poi da ragazzino ho iniziato a giudicarlo, non ho più parlato con mio padre per 5 anni, e questo mi lacerava dentro, perché io lo vedevo come il mio mito, era come per tutte le femmine, il papà è una figura importantissima, e questo dolore era uno di quei varchi in cui loro si sono insinuati, sono entrati. E come? È molto facile, perché è il momento in cui una persona presenta una fragilità, che può essere appunto una malattia, può essere una cara persona che è morta, eccetera, loro si insinuano proprio in quel momento, perché dicono: noi ci siamo, ti aiutiamo, ti diamo tanto amore, siamo la tua nuova famiglia. E nel mio caso è stato che io avevo iniziato a perdere i capelli, avevo una alopecia da stress emotivo molto forte e nessuno riusciva ad aiutarmi. Mi fecero conoscere questa pranoterapeuta che in 2 sedute riuscì a farmi venire fuori questo disagio del passato, perché era molto brava, molto abile. Lei era una cabalista, però era anche molto abile appunto nella psicologia. Quindi lei mi fece ritrovare il papà, ebbi una gratitudine infinita e cominciai a chiamarla per chiedere i consigli, e sempre più spesso diventava il mio punto di riferimento. Ed è una dinamica che si ripete in tutte le sette, cioè loro prima ti avvicinano le persone che ami, prima ti inondano di affetto, di amore. Lì dove noi abbiamo le nostre mancanze, loro riescono abilmente ad entrare e farti sentire importante, eccetera. Quando poi ti hanno sotto controllo, iniziano a allontanarti da tutti i tuoi affetti, ricattandoti con il percorso spirituale, con il percorso di purezza, iniziano tutte le psicosette a un certo punto ti allontanano dagli affetti, quindi dalla tua famiglia, da tuo marito, da tua madre, tuo padre, eccetera. E io in questo libro ho voluto dare veramente una sorta di testimonianza per far capire anche ai familiari che magari hanno delle persone intrappolate in queste situazioni come comportarsi per aiutarli. In questi giorni si parla molto delle presunte molestie che il regista Fausto Brizzi avrebbe procurato a molte giovani attrici che speravano di ottenere da lui un ruolo in un film. Il tuo impegno contro la violenza contro le donne è noto, fa parte di un'iniziativa che con l'avvocato Giulia Bongiorno portate avanti da molti anni, la Fondazione Doppia Difesa. Ma a te è mai successo di subire molestie da parte di uomini di potere del mondo dello spettacolo? Ma io in questi giorni anche con Giulia ovviamente ci chiedono il nostro parere ed è giusto che sia così, perché nel nostro statuto c'è anche il mobbing e quello che è venuto fuori nel mondo dello spettacolo è quello che succede purtroppo anche nella quotidianità delle aziende normalissime con donne che hanno veramente subiscono queste tipologie di molestie e magari hanno due figli a casa e hanno paura di perdere il lavoro. Quindi la mia posizione rispetto a questa situazione è questa. Io sono estremamente felice che finalmente si sia scoperchiata questa cosa una volta per tutte, che le donne hanno iniziato a far squadra, e anche il fatto che certe attrici e certe persone si sono esposte pesantemente dicendo delle cose e si sono rese anche attaccabili, perché non è facile parlare di una cosa del genere, io le ammiro molto e sono contenta che sia venuta fuori, perché è giusto dare anche coraggio a chi invece non è nel mondo dello spettacolo, del cinema eccetera, e subisce magari una violenza, capire l'importanza del dire no. Non esiste un motivo al mondo per il quale noi donne dobbiamo accettare un ricatto sessuale, mai. Quindi per me è fondamentale il fatto che se ne parli, ma è anche fondamentale il messaggio che noi dobbiamo dare alle ragazze, alle donne, che veramente rimbocchiamoci le maniche, non dobbiamo avere paura del giorno dopo. Nel momento in cui un uomo ti ricatta sessualmente con il lavoro, devi alzare i tacchi e andartene. Io ho iniziato il mio mestiere nello spettacolo negli anni 90, che erano un po' gli anni clou di questa cosa, e quindi è ovvio che anch'io tra la moda ne ho vissute, ma ho avuto la fortuna di avere comunque una cultura e un'educazione olandese svizzera molto strict, e quindi non avevo proprio dubbi al riguardo, cioè io veramente me ne andavo e cercavo un'altra occasione. Questo è davvero importante secondo me. Michelle, la tua figlia più grande Aurora si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo, ti ha mai raccontato di situazioni di questo genere che siano capitate a lei o che le siano state raccontate da altre? Ma io sono molto molto fortunata e contenta che Aurora, io l'ho cresciuta con tanti no, nel senso che è una ragazza che oggi è bella risolta, bella matura, ed è molto difficile che una persona possa avvicinarsi ad Auri ricattandola sessualmente, perché ha una forza, una volontà che spaventerebbe l'interlocutore, quindi in più Aurora è in un contesto anche molto protetto, perché comunque lavora nell'agenzia dove lavoro anch'io, e noi siamo molto attenti, la mia manager è estremamente attenta a tutte queste dinamiche eccetera, quindi per ora fortunatamente. Poi lei mi racconta davvero tutto, noi abbiamo un rapporto molto molto bello, e qualora dovesse succedere una cosa del genere lei me lo direbbe proprio all'istante che succede, mi chiamerebbe in diretta, quindi sono serena sotto questo punto di vista, perché abbiamo tanta comunicazione. Grazie Michelle, un saluto, buona domenica a te e a tutte quelle donne dello spettacolo che come te in questo momento stanno mandando un messaggio molto chiaro. Si può dire di no. Se subite un ricatto di tipo sessuale, per essere brutali, o me la dai o non avrai quella parte o non avrai quel lavoro, ecco, non è per questo che perderete il lavoro o non avrete quella carriera che sperate di meritare e di avere. Non è dicendo sì che l'avrete. No, ma facciamo sapere anche un'altra cosa, Maria. Il problema vero è che chi accetta di entrare in un ricatto sessuale, cioè chi si concede, ha finito purtroppo, perché questi molestatori, purtroppo queste persone ti portano a letto e non ti fanno concludere niente, perché loro hanno avuto quello che volevano. Non è vero che si va avanti andando a letto con le persone, non è questa, mai, non è mai stata, tra l'altro, non è vero, ci sono tutte queste leggende metropolitane di donne che sono andate a letto con, non è vero, perché tutte le aziende vivono con i dati e bisogna portare a casa i risultati, altrimenti se non funzioni non ti prende nessuno. Grazie Michelle, il tuo saluto e il tuo messaggio infondono sicurezza e credo che sia il modo migliore per concludere la nostra chiacchierata con la Sunday Girl di questa domenica. Grazie a te Maria, un bacione a tutti. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta. Avete sentito la nostra Sunday Girl, Michelle Hunziker, ma continuiamo a parlare cambiando tema, ma restando sempre su quelli che sono i nostri argomenti, cioè lavoro visto da un'angolazione femminile. Questa domenica parliamo di gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione tra uomini e donne. Ve lo dicevo prima, secondo il Global Gender Gap Report del 2017 presentato al World Economic Forum, per raggiungere la cosiddetta parità di salario e offrire quindi a uomini e donne una retribuzione e una carriera davvero paritaria, bisognerebbe aspettare 217 anni. A me sembra impossibile che sia così, ma vedremo di approfondire, di capire se è davvero così, con i nostri due esperti di questa domenica. Benvenuti all'avvocato Alessandra Perrazzelli, country manager di Barclays Bank e vicepresidente dell'azienda milanese A2A. Buona domenica Alessandra. Buongiorno. E buona domenica a Paolo Gallo, responsabile delle risorse umane del World Economic Forum, autore, ma lo conoscete già perché ne abbiamo parlato già molte volte, di un saggio molto bello che si chiama La bussola del successo e che sarà tradotto, pensate, in 4 lingue e distribuito in 25 nazioni. Buona domenica Paolo Gallo. Buona domenica e grazie per avermi invitato. E dunque, il World Economic Forum, nel quale lei lavora come appunto responsabile delle risorse umane, ha diffuso i dati sulla parità di salario e sostiene che ci vorranno 217 anni perché questa parità si realizzi davvero. È una provocazione? No, purtroppo è l'amara verità. E la cosa triste è che i dati sono peggiorati rispetto a qualche anno fa. In altre parole, noi studiamo gli stipendi di grandi organizzazioni e adesso, senza entrare in troppi dettagli metodologici, cerchiamo di vedere qual è la disparità, la differenza tra gli stipendi degli uomini e delle donne. Qualche anno fa ci sarebbero voluti circa 140 anni per diciamo colmare questo gap, adesso 217. Come mai? Perché nel frattempo gli stipendi degli uomini sono aumentati di più rispetto a quelli delle donne, quindi la distanza è aumentata. E paradossalmente ci vorrebbero più di 2 secoli a questa velocità per colmare la differenza. Quindi è una provocazione da un punto di vista, tra virgolette, diciamo come frase, però metodologicamente è purtroppo vera. Ecco, io mi chiedo se Alessandra Perrazzelli, che è l'unica donna con una responsabilità così grande in una banca internazionale in Italia, quando ha trattato il suo stipendio di country manager a Barclays, si sia posto il problema di farsi dire quanto guadagnava il suo predecessore maschio. È un tema sempre nei confronti del quale ci avviciniamo noi donne con grande cautela. C'è sempre e ancora purtroppo un atteggiamento quasi di timidezza nei confronti del farsi pagare e del chiedere appunto ragione dei soldi. Io posso dire che questo ragionamento con grande fatica ho imparato a farlo nel corso degli anni e sicuramente mi sono posta questo problema quando sono entrata in Barclays. Chiedo a tutti e due, perché le donne continuano a guadagnare meno degli uomini a parità di competenze? Sono meno brave nelle trattative, come diceva Alessandra Perrazzelli, hanno una timidezza e, insisto, le aziende lo sanno e ci marciano. Paolo Gallo. Io volevo rispondere con un dato che mi ha colpito, perché io di mestiere faccio il capo del personale, lo faccio qui a World Economy Forum, prima ho fatto anche in altre organizzazioni internazionali tipo Banca Mondiale, Banca Europea e AFC sempre a Washington, e ho fatto una cosa molto semplice, ho guardato tutte le offerte che abbiamo fatto negli ultimi anni e guardando quanti candidati hanno poi negoziato l'offerta. In altre parole, offriamo, che ne so, 100.000 euro a un candidato, cosa succede dopo? E tra l'80 e il 90% degli uomini inizia a negoziare e tra l'80% delle donne lo accettano. E questo è un modo abbastanza interessante, il modo in cui io lo vedo, per capire l'aggressività o la disponibilità dei candidati ad accettare o a negoziare il loro lavoro. Quindi paradossalmente in parte il problema parte anche un po' da lì, in cui gli uomini hanno la consapevolezza, l'audacia, magari un pizzico di arroganza di negoziare, le donne dicono se mi offrono 100 valgo 100 l'accetto. Questo in parte deve cambiare. All'interno della mia organizzazione ho deciso di fare una cosa semplice, che le donne offro sempre qualcosa di più, agli uomini offro sempre un po' di meno, sapendo che poi alla fine finiamo nello stesso. Certo, perché le donne comunque accetteranno e non cominceranno una negoziazione. Esattamente, un uomo offre 90 e alla donna offro 105, ecco, ci siamo così. Per Razzelli, come mai c'è questa timidezza femminile che non si supera? E anche lei nella sua organizzazione gioca su questo fattore timidezza quando si tratta di negoziare gli stipendi? Obiettivamente, dica la verità. Allora, io credo che in genere si giochi molto su questo discorso della timidezza ed io sono sicura che molti capi uomini in qualche modo lo sappiano e gli vada bene in qualche, no? Comunque aiuta a contenere i costi del personale. Penso che ci siano una serie di ragioni per cui le donne si comportano così. La ragione più atavica è il rapporto che una donna ha col denaro e col farsi pagare, che richiama, diciamo, delle attività che sono delle attività legate all'eretricio. E questo è un tema di fondo che secondo me è inculcato che ha studiato, che ha avuto esperienze di lavoro di altissimo livello, che ha fatto un sacco di sacrifici, quando è lì che deve chiedere più soldi perché li merita, torna indietro e si sente una che sta negoziando una tariffa. Davvero è così? È possibile? C'è una parte di questo, è una parte di mancanza, secondo me, di autostima, nel senso di non aver valutato quanto si vale. Quindi questo non aver, diciamo, in qualche modo misurato sul mercato il proprio valore. Io racconto sempre un piccolo aneddoto di quando ho proposto ad un mio collaboratore, a una mia collaboratrice, in modo disgiunto una promozione e un nuovo lavoro. Lui mi ha chiesto immediatamente quanto più avrebbe preso e dove lo collocava nella carriera, diciamo nella progressione di carriera. A lei sono venute le lacrime agli occhi e mi ha ringraziato per la fiducia. A quel punto, essendo io, diciamo, sensibile su questi temi, con lei mi sono arrabbiata e le ho detto adesso negozi sui soldi. Però quante volte succede questo? Quindi credo che sia veramente una serie di componenti che richiamano però proprio questa, anche non sentirsi padrone del tavolo da gioco, no? Quello che veniva detto prima, quando tu ti senti in un'arena nella quale puoi giocare liberamente, negozi sui soldi. Le donne accedono ancora oggi, purtroppo, al mondo del lavoro con una sensazione di essere in qualche modo lì quasi per sbaglio, e questo è un elemento fondamentale che non permette loro di giocare sui soldi. Paolo Gallo, non so se condivide quello che diceva Alessandra Perrazzelli da un punto di vista, appunto, di chi poi decide anche le retribuzioni dei suoi collaboratori, essendo la country manager di Barclays. Non so se le condivide, e le chiedo, quando lei fa i colloqui di selezione, dovendo dare un consiglio alle nostre ascoltatrici, quali carte secondo lei una donna può giocarsi più di quanto sia possibile fare per un uomo? Quali carte professionali? Non stiamo parlando della camicetta sbottonata, che personalmente, certo, e qui a Nessuno è Perfetta, non consideriamo una carta da giocare. No, assolutamente. Io credo che molto spesso ci sia un equivoco di base, perché quando si assume una donna si mette la flessibilità perché deve correre a prendere i figli, deve andare a scuola, deve stare a casa quando i figli sono malati, come un elemento o un benefit che viene dato, e quindi dice, beh, sapendo che questa persona ha dei problemi di flessibilità le offro di meno. E questo è sbagliato per tanti motivi. Innanzitutto le organizzazioni dovrebbero dare la flessibilità comunque a tutti, indipendentemente dal sesso, dal gender, mm-hmm, della persona. La seconda cosa è che la possibilità o la flessibilità di avere una certa forma di flessibilità nell'orario di lavoro non deve essere confusa con l'aspetto retributivo, sono due cose diverse. Una persona viene pagata in base alla posizione e ai risultati che ottiene, non in base a quante ore sta in ufficio. E quindi molto spesso le donne si fanno un po', dopo una parola forte, fregare, perché diciamo, ah, mi lascio uscire alle 4 venerdì e allora accetto il 10% di meno. Questo non va bene. La seconda cosa, bisogna anche pensare chi prende le decisioni, no? E quindi molto spesso chi prende queste decisioni sugli stipendi, sui salari, sono degli uomini. Mm. Non voglio dire che gli uomini sono cattivi e brutti, io sono uno di questi. Sì. Però diciamo, chi prende decisione ha per definizione un bias nella decisione stessa. In questo, c'è un pregiudizio, dire, un pregiudizio. Sì, Senta, Alessandra Berrazzelli, in un paese come l'Islanda sono arrivati a porsi il problema di stabilire per legge l'equiparazione di salari tra uomo e donna. Se non vado errata, la stessa cosa fu impostata durante la presidenza di Barack Obama negli Stati Uniti. Il punto è che le donne fanno poco squadra. Sono convinta che mentre stiamo parlando adesso qui alla radio c'è chi dice, vabbè, bella forza, la country manager di una grande banca internazionale può parlare di parità di genere e parità di salario, ma io che lavoro come dipendente, faccio un esempio, in una catena di distribuzione alimentare, non so nemmeno quello che guadagna il mio collega pari grado. Cioè, in realtà le donne che sono arrivate a posizioni apicali hanno fatto molto poco per quelle che a queste posizioni non arrivano e forse non arriveranno mai. Ma allora, il tema del pay gap è uno dei pochi temi sui quali, seppure con grande attenzione, si può intervenire anche con una norma. E devo dire che questo, per esempio, è un tema sul quale vari gruppi femminili in Italia in questo momento si stanno coalizzando proprio per parlarne, quindi stiamo facendo squadra, Maria Latella, e tu sai che in alcuni momenti storici questo accade anche nel nostro paese. Quindi è un tema sul quale occorre lavorare per fasce diverse, naturalmente, è chiaro. Chi ha un livello retributivo più basso e ha sicuramente un diverso rapporto anche col potere, no? Quindi stiamo, sì, parlando, come dicevi tu, di alcune fasce, ha una tematica che può essere protetta in qualche modo soltanto da regole chiare, no? Da delle norme, certo, di accesso al lavoro che possono aiutare all'entrata e poi nei passi successivi. E poi c'è tutto l'altro grande tema, che è un tema che riguarda invece le posizioni più apicali, dove c'è una grande discrezionalità. Quindi è un tema su cui la norma può incidere, ma soltanto in alcuni quindi sintetizzando, servono delle regole, delle norme per proteggere chi ha degli stipendi non altissimi. Poi quando si arriva ai vertici, sono le stesse donne che devono saper negoziare, devono farcela un po' da sole. Questo sicuramente sì, ma soprattutto è il momento dell'inizio del rapporto di lavoro, no? Quando i ragazzi escono dall'università sono abituati a sistemi meritocratici, studi, prendi un bel voto e vai avanti. Certo. Quando arrivano al mercato del lavoro non è così, e quindi quel gap salariale del primo lavoro in realtà poi diventa una condanna per le donne, perché non diminuisce, aumenta sempre di più. E quindi, come recentemente abbiamo letto anche sui giornali, sugli online, eccetera, in realtà a un certo punto della vita le donne cominciano a lavorare gratuitamente, se compariamo la retribuzione invece dei colleghi maschi, che a pari grado continuano a ricevere aumenti e comunque aumenti su salari iniziali che erano già del 20-30 volte per cento maggiore di quello delle donne. Quindi il punto importante è il punto di entrata. È il punto di entrata. E lì si possono stabilire delle regole. Grazie a Paolo Gallo del World Economic Forum, grazie ad Alessandra Perrazzelli di Barclays Bank. Buona domenica a entrambi. Grazie. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta. È il momento della nostra coach Carla Ciani e delle sue pillole, consigli pratici per approfondire, vivere meglio la nostra vita professionale. Buona domenica, Carla. Buona domenica, Maria. Buona domenica a tutti. Allora, abbiamo parlato delle differenze tra uomini e donne quando si parla di busta paga, ma al di là dell'aspetto economico, quando avvertiamo un divario di trattamento rispetto ai colleghi uomini, cosa possiamo fare? Perché capita, al di là, ci sono un sacco di posti dove uomini e donne vengono pagati nello stesso modo, per esempio nello Stato, eppure magari il capo ha un tipo di cameratismo, si stabilisce un rapporto più cameratesco tra uomini perché parlano la stessa lingua. E noi che cosa possiamo fare? Le pillole che possiamo suggerire implicano, come dire, un'azione propedeutica che dovremmo fare, e cioè uscire dai cancelli della frustrazione e della remissione. Esiste un gap, ok. Con la prima pillola appunto usciamo dall'autocompiangimento e cerchiamo di analizzare nel nostro singolo caso, nella nostra azienda e nel modo più oggettivo possibile quali possono essere le cause del divario. Nell'ambito manageriale, ad esempio, è scontato che noi in quelle posizioni ci siamo arrivate dopo i maschi e guarda caso magari siamo arrivati in un contesto di crisi e l'azienda avrebbe voluto già ricondizionare i compensi precedenti che magari sono stati incrementati da un'anzianità più alta nel ruolo, ma non ha potuto farlo e noi siamo magari appunto partite già da un compenso ricondizionato dalle necessità aziendali in un contesto di crisi. Quindi in questo caso non si tratta di comportamenti discriminatori, perché questo vale anche per gli uomini che sono arrivati dopo. Ci sono manager che oggi hanno un compenso che è quasi uguale a quello della loro prima linea. Ho capito. E poi paradossalmente gli accenni di ripresa e la conseguente necessità delle aziende di cogliere rapidamente le opportunità hanno in molti casi privilegiato l'uso immediato, no, del contributo maschile in quanto è già pronto, no, in termini quantitativi e qualitativi. E nell'accettare impegni più forti, poi anche nella coppia magari si sono operate delle scelte che purtroppo, proprio per carenze di un supporto sociale, hanno visto le donne in una posizione rinunciataria, no? Quindi queste analisi e questa pillola ci porta ad agire poi dei comportamenti coerenti. E così la seconda pillola riguarda per esempio questi comportamenti nella nostra capacità di comunicare e attestare il nostro valore in termini economicamente corretti. Cosa intendi per economicamente corretti? Voglio dire, dobbiamo comprendere esattamente qual è il percepito aziendale rispetto alla nostra percezione del nostro valore. Non dobbiamo aver paura di un momento valutativo perché lo interpretiamo come un grado di giudizio. Dobbiamo invece proporci per una valutazione sistematica, ricercarla dai nostri capi, anche dai nostri collaboratori e anche magari all'esterno, perché un confronto ci dice a che punto siamo nella mappa, no? E come il nostro contributo viene percepito e quali possono essere le aree di miglioramento. Se non gestiamo bene questo confronto, se anzi lo evitiamo, non avremo quegli elementi oggettivi e solidi che ci faranno avanzare le richieste corrette di allineamento del nostro compenso. È anche molto importante ottenere le informazioni all'interno, conoscere i budget, al di là della busta paga, valutare gli strumenti, i benefit che l'azienda può mettere a disposizione e se questi si inquadrano nei nostri progetti. E soprattutto non dobbiamo avere paura di essere ambiziose, dobbiamo impegnarci per ambire, no? Alla posizione che riteniamo corretta per noi. E se l'ambizione si fonda su contenuti oggettivi e misurabili, è una manna, no? Per l'impresa. Quindi non aver paura del confronto né aver paura di passare per ambiziose. Allora, Carla, la terza pillola? La terza pillola è per impegnarci a migliorarci davvero collettivamente. Spesso i ruoli di responsabilità nelle aree HR, nelle direzioni delle risorse umane, sono ricoperti da donne e purtroppo a volte è difficile per loro superare le resistenze e i pregiudizi più o meno inconsapevoli verso le altre donne. Magari proprio perché le donne cercano in loro la solidarietà, la comprensione femminile, forse la complicità, prima dei contenuti del ruolo. Quindi quale sarebbe l'atteggiamento corretto da assumere nei confronti di altre donne? Dobbiamo invece agire con reciprocità e una reciprocità rispetto alle responsabilità, da una parte di inquadrare le aspettative e i bisogni delle persone nel modello di business e dall'altra della trasparenza e chiarezza delle nostre aspettative, dei nostri reali bisogni e dei nostri obiettivi. Io ringrazio la nostra coach Carla Ciani e grazie a voi per averci seguito anche questa domenica. Vi ricordo di scriverci, di scrivere dei vostri problemi a Nessuna è Perfetta, @radio24.it o di twittare i vostri pensieri. Intanto buona domenica e abbasso il multitasking!